Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. C'è una lista molto lunga di uomini e di donne che sono partiti dal basso, dal fondo della classifica, hanno percorso la via del successo, hanno raggiunto la cima superando tutti gli altri. Beh, le ragioni che spingono lungo questa strada, che ti danno le motivazioni, sono sempre diverse tra loro. Quella del nostro protagonista di oggi ha a che fare con la voglia di riscatto, col desiderio di trovare nel consenso del pubblico la via per accettare se stesso e anche per superare i propri demoni. Non è l'unico di cui abbiamo parlato, ma questa è una storia veramente particolare. È di un artista pieno di contrasti, con un talento che rasenta la follia, amatissimo dal pubblico, spesso disprezzato dalla critica, divertentissimo davanti alla telecamera, ma tormentato e solo quando si spengono le luci del palcoscenico. Un attore che deve tutto, soprattutto negli inizi, alla sua straordinaria mimica facciale, una maschera comica che ha sfidato le regole della Hollywood più perbenista. From the upcoming film True Crimes, please welcome two-time Golden Globe winner Jim Carrey. Thank you. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey. Jim Carrey, la nostra storia inizia una sera del 1987. Lui ha 20 anni, è a bordo della sua auto, si ferma lungo la Mulholland Drive di fronte alla famosa scritta Hollywood, quella in bianca, non quella bianca, avete capito? E prende il suo libretto degli assegni, ne compila uno, lo intesta a se stesso e scrive la cifra, 10 milioni di dollari. E sull'assegno si legge: a Jim Carrey per meriti artistici da incassarsi nel giorno del ringraziamento del 1995, cioè 8 anni dopo. Avete capito? Una scommessa che rasenta la follia, lui si intesta 10 milioni di dollari che ovviamente non ha. È una sfida con se stesso, che nasconde intanto un profondo disagio interiore, oltre alla convinzione tutta americana che il successo vada e anche la felicità vadano di pari passo con i guadagni, e scopriremo anche stavolta che questo assioma non è così vero. Qualche anno dopo lui questa scommessa la vincerà, diventerà il comico più pagato della storia del cinema, però forse la sfida vera, quella con la vita, non riuscirà mai a vincerla. Per capire davvero la sua storia bisogna fare un altro passo indietro, per provare a capire il perché di quell'assegno, di quella sfida portata alla vita con questa fortissima determinazione, con questa rabbia che diventa in lui un propulsore incredibile. James Eugene Carrey nasce a Newmarket in Canada, vicino a Toronto, 17 gennaio del 62. È l'ultimo di 4 figli di una famiglia cattolica della piccola borghesia canadese. Il padre Percy è un sassofonista che ha dovuto lasciare da parte il suo sogno di musicista per mantenere la famiglia, e la madre Kathleen è la classica casalinga americana, insomma comunque canadese, ma è quasi la stessa cosa, ipocondriaca con il carattere fragile. E poi nel 76 il padre, che lavora come contabile, dopo aver perso, diciamo, l'occasione di fare il sassofonista, perde anche quell'occasione, è costretto a cercare un altro impiego perché viene licenziato. Accetterà di lavorare in una fabbrica della zona come custode. I soldi sono pochi, la famiglia deve contribuire, così Jim, che ha solo 13 anni, va a scuola la mattina, pulisce i bagni la sera, la notte aiuta il padre come custode, e il padre resiste 2 anni a questo lavoro così frustrante per lui, poi si licenzia e la famiglia viene gettata sul lastrico. Per mesi sono costretti a vivere in un camper e poi addirittura in una tenda. Ecco come nel libro Jim Carrey la giornalista Anna Praderio riporta le parole di Jim sul padre. Ero ancora un bambino e mi domandavo: ma perché fanno questo a mio padre? È un interrogativo che mi è rimasto dentro sempre. Sono stati dei bastardi con lui. Fare il bancario non era il suo mestiere, non aveva il senso degli affari e mancava d'istinto omicida. Era il tipo di uomo che nel deserto, sotto il sole cocente, ti avrebbe prestato la sua maglietta per evitarti le scottature. E Jim vive le difficoltà del padre come fossero le sue cresce, con una costante sensazione di fallimento, di ingiustizia. Nella sua testa di ragazzino comincia a farsi strada quella voglia di riscatto che sarà la sua benzina per gli anni successivi. Lui per ora è solo un bambino magro, pieno di lentiggini, con una faccia molto espressiva, che sogna un giorno di diventare un attore famoso. Naturalmente adora Jerry Lewis, uno che della duttilità della sua faccia ha fatto un'icona, adora James Stewart, passa il tempo davanti allo specchio a provare le sue prime imitazioni, quelle di John Wayne, di Clint Eastwood, e in famiglia la sera di Natale c'è l'appuntamento fisso della sua esibizione. A scuola lui diverte i compagni, gli insegnanti con i suoi piccoli show, e lui è quello, per intenderci, che fa le smorfie alle spalle dell'allenatore di football, che fa sempre il buffone, che non risparmia le sue battute a nessuno. E poi c'è una prima esibizione su un palco. Lui ha solo 14 anni, si presenta in un cabaret di Toronto, è un disastro completo. Il pubblico non si impietosisce per aver davanti un ragazzino, non lo fa neanche finire. Però Jim è molto determinato, ha già un fuoco dentro che gli permette di non farsi abbattere. Non vuole essere un loser, come dicono in America, un perdente. A 16 anni lascia la scuola per fare il comico a tempo pieno. L'anno successivo, a 17 anni, 3 anni dopo quel debutto disastroso, torna su quel palco dove aveva preso valanghe di fischi, e questa volta ne esce vincitore, perché è una specie di contest di comicità. Il pubblico lo acclama re per una notte. Da quel momento Jim comincia a ritagliarsi dei piccoli spazi, la gente a Toronto comincia a conoscerlo. Nell'81 gira anche il suo primo film, Introducing Janet, presentando Janet per la TV canadese CBC. La pellicola verrà riproposta molti anni dopo in un home video con il nome Rubber Face, faccia di gomma, e dopo il successo, insomma, viene sfruttato la popolarità dell'attore. Non è un capolavoro questa pellicola, ma convince Jim a fare il grande salto di qualità, tentare la sorte negli Stati Uniti. E sono molti i comici, gli uomini di spettacolo che prima di Jim hanno fatto lo stesso percorso, cioè lasciare il Canada per tentare la fortuna negli Stati Uniti: Dan Aykroyd, John Candy, Leslie Nielsen, Rick Moranis, Mike Myers, e sono solo alcuni. C'è un vero e proprio filone di attori comici di origini canadesi. Forse, non so, la mentalità canadese in qualche modo è un pochino diversa da quella americana. Jim forse insegue questo mito, poi è spinto da una terribile motivazione personale: vuole essere quello che i genitori non sono mai stati, vuole che guardandolo nessuno possa pensare a un fallito, e questa determinazione gli servirà. Passeranno però molti anni ancora, 13 anni, prima di riuscire a realizzare quei sogni. La gavetta americana inizia sui palcoscenici di Las Vegas, di Atlantic City, poi si va a Los Angeles nel leggendario Comedy Store, lo stesso locale in cui si sono fatti le ossa molti altri nomi famosi, uno tra tutti Robin Williams. Jim è quello che gli americani definiscono lo stand-up comedian, uno di quei comici che fa spettacoli dal vivo nei club. Intanto al cabaret comincia a alternare dei piccoli lavori in televisione, lavora anche al cinema, ci mette dentro tutto se stesso, ma non basta l'impegno per sfondare, e rimane relegato a progetti mediocri. E spesso la vita è così, è come le gare di sci, dove quando non sei forte ti mettono anche il pettorale numero 75, invece di sciare sulla neve fresca come i campioni, sci sui sassi, succede. Quindi basso budget, cose di questo genere. Anche quando le produzioni diventano più importanti, come Peggy Sue si è sposata di Francis Ford Coppola, lui riesce a ottenere solo ruoli marginali. E certo, sono occasioni per farsi conoscere nell'ambiente, e proprio sul set del film di Coppola fa amicizia con un ragazzo, il nipote del regista, si chiama Nicolas Cage. È un periodo di delusioni, delle grandi ambizioni che si scontrano con la realtà, con ruoli deludenti. Lui sa di essere bravo, ma non riesce a conquistare quelle parti che gli permetterebbero di emergere. Vive una frustrazione rabbiosa, simile a quella di un personaggio di un film che girerà molti anni dopo, il giornalista Bruce Nolan. Sono Bruce Nolan, a bordo della Maid of the Mist nelle favolose cascate del Niagara nello stato di New York. Vorrei innanzitutto aggiungere anche le mie congratulazioni a Evan Backstorbido. Scusate, Bastard Baxter, volevo dire. È bello vedere cosa fa una persona di grande talento quando grandi occasioni vengono date a lui invece che a me. Forse è così che va la vita, vero? Perché c'è chi è zuppo, congelato a morte su una stupida barca, con uno stupido cappello. E c'è chi invece se ne sta comodo in uno studio e si becca tutta la gloria. Vabbè, ma che sarà mai? E tra le tante frustrazioni c'è anche qualche gioia. Sul set di un paio di film nel quale lui è poco più che una comparsa, conosce l'idolo di una vita, Clint Eastwood, una delle sue migliori imitazioni di sempre. Se quello era Dio, io sono Clint Eastwood. Oh, porca miseria! Oh! Pensa bene a quello che desideri, tempista. No! Ah, no, no! Io sono un essere ragionevole, sano, con la testa sulle spalle. Una 44 Magnum, la pistola più potente del mondo! La verità è che all'inizio degli anni Ottanta Hollywood e i suoi idoli ce li ha già, e semplicemente lo star system non ha bisogno di lui. Sono gli anni dei Ghostbusters, con Bill Murray e Dan Aykroyd, Eddie Murphy, tutti e tre peraltro figli del Saturday Night Live. Anche Jim ha fatto i provini per il nuovo cast del Saturday Night Live, però non è stato preso, e quello era lo show più famoso dell'epoca in quel periodo. Poi sono gli anni di Tom Hanks, la faccia diciamo perfetta per le commedie romantiche, intanto Robin Williams che spopola con Good Morning Vietnam e con tanti altri film. E questo è un momento di grandi delusioni, di fallimenti e di esaurimenti nervosi. È lì che Jim va con la sua auto a Hollywood sulla Mulholland Drive in quella sera dell'87 che vi ho raccontato all'inizio. Lui non ci sta, non vuole arrendersi alla sua realtà insoddisfacente. Per lui il successo non è più un sogno, è un'ossessione. Allora scommette 10 milioni di dollari su un futuro diverso, si intesta quell'assegno, è un patto con se stesso: non mollare fino alla fine. Deve riuscire per forza per riscattare non solo e non tanto il suo passato, ma anche e soprattutto quello di suo padre. E intanto trova anche il tempo di sposarsi con Melissa Womer, che è una aspirante attrice che lavora al Comedy Store come cameriera. Anche lei è combattuta tra i suoi desideri, i suoi sogni e la triste realtà. Dalla relazione nascerà anche la prima e unica figlia di Jim Carrey, Jane Carrey. Piano piano la situazione si sta evolvendo, qualcosa si sta sbloccando, il suo nome comincia a girare a Hollywood. Nel 1990 la Fox sta mettendo in piedi un cast per uno show televisivo comico, In Living Color, una versione diciamo afroamericana del Saturday Night Live. Carrey colpisce i produttori che lo scritturano. Insomma, dopo 10 anni di gavetta durissima, le cose sembrano finalmente cambiare, c'è qualche segnale, e poi lui nello show comincia a esprimersi come mai aveva fatto prima, si scatena con imitazioni, con personaggi che lui ha provato da anni. E lì per la prima volta Jim scopre cosa voglia dire essere famosi. La madre però non lo saprà mai, perché la madre muore nell'89, proprio pochi mesi prima che lui entri a far parte della squadra di In Living Color. E dimostrare ai genitori di avercela fatta era uno dei suoi desideri più grandi, ma non fa in tempo. Jim dedicherà alla madre il suo primo grande special televisivo, Jim Carrey's Unnatural Act, del 1991. Gli anni successivi lui non può far altro che buttarsi a capofitto nel lavoro, ha investito tutta la sua vita sul successo lavorativo, non vede altro, passa anche 18 ore al giorno a scrivere gag e sta lavorando a diversi progetti in contemporanea, si impegna su tutto, gioca su più tavoli. Tra i lavori di questo periodo c'è anche la stesura di una sceneggiatura per un film che cambierà per sempre la sua carriera. Sta per arrivare il momento di riscuotere quell'assegno da 10 milioni di dollari. Eh sì, perché la sceneggiatura di quel film si chiama Ace Ventura, Pet Detective. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando la storia di Jim Carrey, uno dei comici più popolari e meglio pagati di sempre, uno che ha trovato la sua motivazione per il successo nel suo passato, nella sua adolescenza nella povertà, nel suo mondo difficile dal quale parte. Tutto questo ha fatto crescere in lui una rabbia incredibile, una voglia di sfuggire al destino da perdente al quale sembrava indirizzato. 10 anni di gavetta, delusioni, fallimenti e poi nel 90 il primo spiraglio di successo che si chiama In Living Color. Il programma funziona, il programma televisivo, però il vero colpo d'ala deve ancora arrivare. Gene lavora tantissimo, mentre si esibisce in TV scrive una sceneggiatura e il film dovrebbe chiamarsi Ace Ventura, la chiappa animali, Ace Ventura Pet Detective, il titolo originale. Il testo gira a lungo tra gli agenti di Hollywood, tutti lo rifiutano. Alla fine lui riscrive la sceneggiatura insieme a 3 compagni di cabaret, Jack Bernstein, Steve Odekirk e Tom Shadyac. Sono 3 filmmaker, 3 battutisti che firmeranno tutta la comicità americana degli anni 90. Nel suo libro su Gene Kerry, la giornalista Anna Praderio riporta proprio le parole di Shadyac, che sarà anche il regista di Ace Ventura. Con Jim il trucco è non spegnere mai la cinepresa, perché non si sa cosa può accadere. Certe volte lascio girare la pellicola fino a limiti assurdi, perché lui potrebbe uscirsene con una delle sue follie proprio alla fine di una ripresa. E il film viene prodotto dallo studio indipendente Morgan Creek, arriva nelle sale il 4 febbraio 1994. La trama non ha niente di particolare in realtà, perché tutto si regge sulla stravagante e assurda figura del protagonista. Gene Siskel e Roger Ebert, che all'epoca sono i critici più influenti d'America, lo bollano come 2 thumbs down, doppio pollice verso, il peggior film dell'anno. Però il pubblico non è d'accordo. In un solo weekend incassa 10 milioni di dollari. Insomma, il comico dalla faccia di gomma diventa un caso controverso. La rivista Vogue titola "Cosa abbiamo fatto per meritarci Jim Carrey?" Lui è accusato di rincitrullire gli americani con una comicità volgare e di basso livello. Se Robbie Williams incarna il fool, cioè il genio un po' matto dal cuore puro, Carrey invece il dumb, l'idiota ribelle che non sta alle regole. Piace sicuramente più ai ragazzini e apre l'eterno dibattito tra la critica e il pubblico. Tante volte persone gradite alla critica non sono state amate dal pubblico e viceversa. E che piaccia o no, comunque Ace Ventura rappresenta una novità per la comicità hollywoodiana e il suo pubblico di riferimento, insomma, l'abbiamo detto, sono i ragazzini, e lui li cattura con battute al limite del cattivo gusto e con lo spirito demenziale delle sue trovate. Poi c'è la sua mimica facciale, le movenze del corpo, una fisicità mai vista prima. In una delle scene più celebri del film, Ace Ventura cerca di ottenere informazioni da un poliziotto piegandosi a 90 gradi, facendo parlare il fondoschiena come fosse un personaggio, e la gag diventerà il suo marchio comico. Ciao caro, mi riconosci? Sono Culo, volevo farti qualche domanda. Zio, non è il momento, Ace. Se viene giù la Anor e vede che sto parlando con quel tuo culone, io sono fritto. 5 minuti da soli, non ti chiedo altro, andiamo! Andiamo! Batti una regolata, la Anor sta venendo giù. Dai Ace, ti prego amico, piantala! Ma che ti prende Emilio? Hai paura che parta una ventata? Andiamo! D'accordo, Aguado sta lavorando al caso, contento Aguado? Aguado? Ottima scelta. Adesso te ne vuoi andare di qui prima di cacciarmi nei guai? Grazie della collaborazione! A proposito, ce l'hai una mentina? Così mi profumo l'alito! Dopo tanta faticosa gavetta, Carrey nel bene e nel male è sulla bocca di tutti. Siamo nel 1994, un anno che sarà un anno chiave per lui, perché gira altri 2 film con grandi risultati di botteghino, The Mask e Scemo e più scemo. Fumeggiante! È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Mi dispiace, la faccio! Con The Mask si alza un po' il livello. Jim porta sullo schermo il primo eroe metà umano e metà cartone animato degli anni 90. Il protagonista è l'incarnazione del tema del doppio in tutti i sensi, uno schema che Jim riprenderà anche in altri lavori. Anche qui, come in Ace Ventura, è il suo personaggio che la fa da padrone in tutta la storia. È scritto su di lui, tanto che lui si ritrova a fare alcune delle sue storiche imitazioni da cabaret, aiutato dagli effetti speciali che si mescolano perfettamente con la sua straordinaria mimica. Occhiali da sole giganti, pallina di gomma, trombetta. Pesce persico. Mamma mia! Birillo. Oh. Trappola per topi. Pollo di gomma. Un pochino più a sinistra, così. Oh! Non lo so. Occhiali fatti a palla. Non ho mai visto quegli occhiali in vita mia. Bazooka. Ho il porto d'armi per quello. La foto della moglie di Calloway. Cosa? Telefonami, maschione. Margaret! Brutto figlio di puttana! Accidenti! Credeva avesse il senso dell'umorismo! Dopotutto, se l'è sposata lei! Starà soffrendo! Prendetelo! Il film esce nell'agosto del 94 ed è il fenomeno dell'estate. Supera velocemente i 100 milioni di dollari di incassi solo negli Stati Uniti. Nel mondo arriverà a oltre 300 milioni di dollari. E il protagonista diventa l'eroe dei più piccoli, con battute tormentone, momenti musicali coinvolgenti. E insomma, lui peraltro dimostra di sapersela cavare alla grande. In una scena il suo personaggio, inseguito e accerchiato dalla polizia, risponde intonando una scatenata rumba e coinvolge i poliziotti che iniziano tutti a ballare. Sono passati solo pochi mesi dal successo di Ace Ventura e The Mask e Carrey mette a segno il terzo colpo nello stesso anno con Scemo e più scemo, Dumb and Dumber, in coppia con Jeff Daniels. Insomma, in pochi mesi ha sconvolto la sua vita e il suo passato sembra molto lontano. Per questo lavoro guadagna 7 milioni di dollari, il film incassa 127 milioni solo negli Stati Uniti, tutto questo proponendo un eroe maschile molto distante dai canoni americani, immaturo, infantile e fuori di testa. Dove li hai trovati i 25 dollari? Ho venduto della roba a Billy del 4C. Il ragazzino cieco? Sì! Sì. Cosa gli hai venduto, Lloyd? Che so, qualche figurina di giocatori, un sacchetto di biglie, pietra. Pietra? Hai venduto la mia uccellina morta a un ragazzo cieco? Lloyd, pietra non aveva neanche la testa! Harry, ci ho pensato io! E la critica ancora una volta lo distrugge. Carrey è uno diverso che osa sfidare il perbenismo hollywoodiano. Forse è questo che piace soprattutto ai ragazzini che vogliono trasgressione. Però il successo intanto, come spesso accade, coincide con una flessione nella vita privata. Finisce il suo primo matrimonio, si separa da Melissa e il matrimonio non regge all'urto della fama. Nel 96 si risposa con Lauren Holly, conosciuta sul set di Scemo e più scemo, e la loro sarà la classica relazione in pieno stile Hollywood, pedinati dai paparazzi, costretti a travestirsi per poter uscire senza la folla attorno, con crisi, con separazioni, riconciliazioni che finiranno regolarmente su tutti i tabloid d'America. E nel 94, due anni prima del suo secondo matrimonio, è morto Percy, il padre di Jim, una delle persone più importanti della sua vita, forse quello che lo ha spinto a questa battaglia, che gli ha dato la voglia di rivincita anche per interposta persona, cioè per rifarsi dei fallimenti del padre. Il giorno del funerale Jim infila nella giacca del padre quell'assegno da 10 milioni di dollari post datato, l'assegno dei tempi della gavetta. Si chiude un ciclo. Tutto riparte, anzi tutto decolla, però il successo non ha certo risolto i problemi di Jim. Il falco e il gabbiano. Jim Carrey ha messo a segno un trittico incredibile: Ace Ventura, The Mask e Scemo e più scemo, e grazie a questi tre film è ormai diventato una star. È un fenomeno unico nel suo genere, con un pubblico di riferimento che è quello dei giovani, dei giovanissimi e ragazzi che accorrono in massa al cinema ogni volta che la sua faccia appare sulla locandina. Insomma, è diventato il re del box office. L'inizio di una lunghissima carrellata di successi al botteghino, quasi mai successi di critica. Nel 95 interpreta l'enigmista nel terzo film di Batman Forever e poi riprende il personaggio che lo ha reso famoso con Ace Ventura Missione Africa, titolo originale When Nature Calls. Nel 96 viene diretto da Ben Stiller nella commedia nera The Cable Guy, il rompiscatole, riceve un compenso di 20 milioni di dollari, all'epoca è la cifra più alta mai pagata a un attore. Nel 97 è il momento di Bugiardo Bugiardo, Liar Liar. Gli ultimi due sono film di transizione verso ruoli diversi da quelli a cui è abituato il pubblico. È il momento di crescere, ma in questo momento sono l'occasione perfetta per inserire alcuni riferimenti alla sua vita. Se faccio sempre le smorfie, resto così tutta la vita. Ah, ah. C'è gente che ci campa alla grande con le smorfie. E nel 95 Carrie lascia le sue impronte sul celebre marciapiede delle star a Hollywood, la Walk of Fame. Ormai è troppo impegnato con il cinema per proseguire nello show Living Color, e Living Color senza di lui deve chiudere i battenti. In questo periodo anche il suo secondo matrimonio, quello con Lauren Holly, entra in crisi. Arriva il secondo divorzio. Lui reagisce come sempre con l'unica cosa che può e sa fare: si butta a capofitto sul lavoro. È il momento di un film nuovo, diverso dal solito per lui e per tutto il cinema hollywoodiano. Nel 1998 arriva nelle sale The Truman Show. Il ragazzo che parla con il sedere non c'è più, ha lasciato spazio a un personaggio più profondo, a una storia drammatica, originalissima e con dei risvolti inquietanti. La metamorfosi è totale. Richard Corliss, critico cinematografico per Time, descriverà il film come la satira più intelligente sui media che Hollywood abbia mai realizzato. La sua nascita è stata seguita da 1.700.000 spettatori. 220 paesi erano sintonizzati quando ha mosso i primi passi. Il mondo si è fermato per questi baci rubati e la tecnologia è cresciuta insieme a lui. Un'intera vita filmata da un'intricata rete di telecamere nascoste, trasmessa in diretta e senza censura 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, per il pubblico dell'intero pianeta. Il collegamento da Sea Heaven Island, racchiusa nel più grande studio che sia mai stato realizzato, unica opera insieme alla muraglia cinese, interamente costruita dall'uomo e visibile dallo spazio, ecco a voi, nel suo 30° anno di edizione, il Truman Show! Beh, il film è geniale, io l'ho visto e rivisto, è un film meravigliosamente intelligente, acuto, di denuncia, una critica radicale al sistema dei mass media, allo strapotere della televisione, un film avanti sui tempi proprio. E per quel film lui vince il Golden Globe come miglior attore drammatico e ottiene le nomination agli Oscar per la sceneggiatura, per la regia e per il miglior attore non protagonista, Ed Harris. Alla cerimonia Carrie viene chiamato solo per presentare alcuni premi, ma lui la prende bene perché l'umiliazione per la mancata nomination diventa lo spunto per una delle sue esilaranti gag. Truman Show è un film che passerà alla storia, che rimarrà nella storia, come peraltro anche il film che vince quell'anno l'Oscar, che è La vita è bella di Benigni. Nel 99 Carrie viene scelto come protagonista per un film ambitissimo, Man on the Moon, la storia dello showman Andy Kaufman, uno dei più grandi cabarettisti americani, un personaggio stralunato e incapace di separare la propria vita dalla rappresentazione. Jim è un fan di Kaufman, lo considera un eroe personale, lo sente vicino a sé e ai suoi demoni. Lui insomma si identifica con Kaufman al limite del patologico. E anche questa volta il lavoro di Carrie è elogiato dalla critica. Negli Stati Uniti però è un insuccesso commerciale, va un po' meglio in Europa. Carrie ottiene il Golden Globe come miglior attore di commedia. L'Academy però rimane diffidente, lo esclude ancora una volta dalle nomination agli Oscar. Carrie ci rimane male, ma ovviamente va avanti, tiene duro, figuriamoci se un mancato Oscar può fermare uno che non si è mai fermato. Gira un film all'anno, anche di più, e quasi sempre è un grande successo al botteghino. Una settimana da Dio, Lemony Snicket, Yes Man, Number 23, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, forse uno dei suoi film più belli. Insomma, i titoli sono tanti, non si possono citare tutti. Il suo successo nel mondo di Hollywood però resta sempre un successo ottenuto a metà, mai completamente riconosciuto dalla critica. Chissà il tempo se darà ragione a lui, come è successo per dire da noi con Totò, o se invece verrà cancellato da altri grandi attori, chi lo sa. Ma intanto lui nella intervista è sempre brillante, divertente, però come spesso accade ai comici, cova una tristezza interiore. Quella è solo la maschera che lui indossa per il pubblico, la persona che c'è dietro non la mostra quasi mai. La sua vita privata è segnata da molte relazioni finite male, quasi sempre con attrici famose molto più giovani di lui. Una delle più importanti è quella con Jenny McCartney, un'ex coniglietta di Playboy. La fine della relazione lo lascia distrutto. Nel 2012 i giornali pubblicano delle fotografie in cui lui appare quasi irriconoscibile, col viso scavato, i capelli spettinati, un'espressione terribile, e lui ammette di assumere regolarmente Prozac per combattere la depressione. Nel settembre 2015 la sua ex fidanzata Catriona White, 28 anni, si toglie la vita con un'overdose di farmaci antidepressivi, probabilmente appartenenti proprio a Jim. I due si erano lasciati 5 giorni prima e lui porterà a spalla la bara della ragazza durante i funerali. Oggi Jim Carrey ha 55 anni, non è più la star che era stata fino a una decina d'anni fa, forse per scelta. All'inizio del 2017 pubblica In Edit Color un video documentario che parla della sua passione per la pittura e il nome sembra un po' un eco dei suoi esordi. A settembre del 2017 presenta fuori concorso alla 74esima mostra del cinema di Venezia un altro film documentario dal titolo Jim Andy, The Great Beyond, The Story of Jim Carrey Andy Kaufman, che racconta il backstage di Man on the Moon. Sono passati quasi 20 anni da quel film che più di tutti lo aveva coinvolto. Per parlare di questo personaggio, della carriera di Carrey, ho bisogno a questo punto dell'aiuto di un mente illustre, un critico cinematografico che peraltro voi di Radio 24 conoscete bene, non solo voi. Boris Sollazzo, buongiorno Boris. Buongiorno Enrico. Dunque, stiamo parlando di Jim Carrey e tu eri a Venezia al festival e hai visto il documentario di Carrey. Di cosa parla? Beh, è sostanzialmente il racconto di un attore che deve interpretarne un altro e Kaufman diventa la sua seconda pelle, anzi forse certo. La prima. Scompare Carrey e arriva Kaufman. Questo documentario racconta questa discesa agli inferi, questo certo. Unirsi con un'altra anima, forse troppo affine di quello che lo stesso Jim Carrey era disposto ad ammettere, e anche a tutto il dolore, oltre che al talento che questo film poi tira fuori da Jim Carrey. Certo, senti, Jim Carrey come molti comici gioca il suo ruolo de comico appunto e poi invece nasconde una malinconia di fondo. Intanto perché tutti questi comici hanno una malinconia impensabile quando li vediamo recitare? Forse la risposta è proprio Kaufman. Per riuscire a far ridere, che in fondo è un'espressione anche fisica, faticosa quanto il piangere, no? Certo, serve sì. Conoscere l'animo umano, il dolore umano più di chiunque altro. Per far ridere davvero devi conoscere il tuo lato oscuro e devi conoscere anche il lato oscuro degli altri. Quindi credo che sia questo il motivo, il dover raccontare agli altri di cosa si ride, e spesso noi ridiamo di tragedie certo. che inevitabilmente poi il tuo mondo si deve inquinare di una certa depressione, e Carrey ne è stato la dimostrazione. Man on the Moon rappresenta non solo un turning point nella sua carriera professionale, ma anche nella sua vita personale. Certo. Diventerà un calvario molto doloroso quello dei suoi ultimi 15 anni. Dopo Yes Man di fatto non fa più bei film, poi addirittura ne imbrocca alcuni che sono dei flop clamorosi. Quindi, sì. Però quello che dice nel documentario è che recupera se stesso, cioè a 55 anni finalmente forse è un uomo equilibrato, anche se proprio in quel momento hai l'impressione che lui stia facendo la sua più bella interpretazione, che non sia sincero, perché rimane un grandissimo attore e lo è anche in questo documentario. È vero. Boris, grazie mille per averci aiutato a conoscere questo personaggio così interessante. Grazie. È stato un piacere, a presto. E Jim Carrey è partito dal nulla, ha ottenuto tantissimo, la sua rabbia è stata un motore fenomenale, forse però non ha trovato quello che cercava veramente. Lui rappresenta proprio l'assioma che il successo non è tutto. Non si possono cancellare le ferite profonde neanche a suon di dollari. Per usare le sue parole, spero che tutti possano diventare ricchi e famosi e avere tutto quello che hanno sognato, così scopriranno che quella non è la risposta che stavano cercando. E io sottoscrivo. Se volete mandare dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, cercateci e cercatemi sui miei, sui nostri social. E casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.